Colonni. Attenzione, canale 10, cambio. Attenzione, 10, cambio. Hola, prova radio, cambio. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, cambio. Hola. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Capa, cambio. Ehi, te mi conta già. Ciao Gianni, buonasera. Come mi ascolti dalla barra mobile? Benissimo, benissimo, va bene. Sto andando verso Predanieta, dai, la strada di Alghero. Che cappa, io sono in via Lomberto. Ah, in macchina sì. Macchina cappa. E vabbè, ti ascolto bene anch'io, dai. Io sto andando verso Predanieta, che devo andare a comprare il fondo per mettere la gabbia degli uccelli. Cavagava, no, io sono in via Lomberto, altezza, vicino alla banca, dai. Cavagava. Comunque sta arrivando bene qua già, io non so come sto arrivando da te, il segnale, blu. Già arrivi bene, fra, io vabbè sto guidando adesso, non posso guardare, comunque arrivi bene. Io adesso sono a Predanieta. Cappa, qua sei 9:10. E meno male sei anche tu così, fra, ho guardato la lancetta adesso, sei così anche tu. Sei 9:10, sì. Vabbè, la c'è un po' rauca, però già va bene, dai. Già sta schiarendo adesso, dai, non è più come prima, va. È una rotta di palle già, guarda. Wow. Oh yeah. In girella sei fra. No, oh, sono andato in macchina a fare delle commissioni. Io mi sono andato a prendere quella roba di uccelli nella strada di Alghero, perché qua a Sassari non è vendono, non lo vendono solo lì. Non lo solo lì. Quel trucciolato che si mette sotto per lettiera, dai. Che già io ho capito. Ne ho messo il giornale, se lo stanno mangiando tutto, c'ha l'inchiostro, li fa male. E anche quello che ho io si mangia il giornale. È un vizio che hanno quelli lì, capito? È un vizio brutto, perché il giornale c'ha l'inchiostro, le fa male, capito? Lo so. Dove sei arrivato adesso? Da Troni sono, dai, dove c'è Piccasa, eccetera, eccetera. Sì, capo, dai, già ti ascolto bene. Io sto utilizzando quella antenna piccola, E anche io, quella piccolina che ho comprato, la nuova. Già va bene, dai. Ma quello è 1,20 m già. Sento da tutte le parti con questa antenna, mi sentono tutti bene. Ho detto 1,20 m quella. Adesso c'è propagazione, fra, non so se mi ascolti, io non ti ascolto più. Sì, 7, radio 5. Cavagava, dai. Anche adesso ti ho sentito, dai. C'è la propagazione, stava arrivando forte qua. Vabbè, ho detto io sto utilizzando quell'antenna nera, quella caricata. Già va bene, dai. Secondo i punti ti ascolto più basso, ma quasi sempre va bene, dai. Vabbè, corta come antenna, capito? Se ci piazzo l'altra magari mi ascolti meglio. Questa lo stesso, è corta, è 1,60. Evita mi pare che è 50 centimetri, 60 centimetri già. Già da me, fra, va bene, intanto avere queste antenne ingombranti che ti ricaggini, ti danno casino. Certo. Questa attacca brutto, mi attacca e fa fatica a staccarla. Vedi, ho capito. È la mia propagazione che attende. Lo so, cioè io QRM non ne ho comunque. No, io sento proprio il fruscio della propagazione. No, io non ne ho QRM. Non ne prende i colpi questa radio. Ma questa qua non è questione di colpi, è questione di ricezione. Questa qua c'è una ricezione fenomenale. Vai, lampade giù, M400. Così da voi andi tu a quelli di Nila, no, la roba. Fai l'affare, furbacchione. Non ne ho bisogno io ci sto buttando tutto nel cassonetto da oggi. Così almeno non vi sento e non vi penso. Ma così è. Vabbè, dimmi quale cassonetto che ci vado io. Quello verde è indifferenziata. Ma ve ne sono belli i cassonetti verdi, di da lampi. No, quello sotto casa mia. Cosa posso? Chilometri barano parte la roba. Biglietti la lampo. No, buttala quello che c'è sotto casa, così faccio prima a prenderla. Cazzo, dopo troppo, pure a domicilio lui, a buttatina. Aspettate un attimo che devo mettere le buste nel guinzaglio. Oh, sono arrivato da quando, dai. Parla con Franco, poi già entro, dai. Sto parcheggiando che devo comprare roba da quando. Franco! E Natalino, narami! Ma dove sei? Dove sei? I carabinieri? Alla stessa di gara Trento, cambio! Gara gara! Anche da lì arrivo! Con quella radio anche alla Landriga! Era proprio che non mi ascoltavi! Già ti ascolto, se ti sto rispondendo vuol dire che già ti ascolto con le orecchie, però e andava avanti, cava cava. Mi sa già ne dove è arrivato. Vedo se è arrivato a casa sua, adesso già entrava. Ma te l'immagini, voleva portargliela a casa sua, al cassonetto di casa sua. E che cosa? Tutta la roba che c'ho io ce l'avevo buttata nel cassonetto, dovete venire qua nel cassonetto sotto a casa e lui non ci vuole venire. Vai che stava scherzando, vai. Davvero? Davvero, Fra? Sì, già. Non si vende via le 30. Era una commissione, ci sono stato. Cava cava. Dicono qua, adesso che gli ho fatto la massa già va bene, dai. E anch'io gli ho fatto la massa qua, se no sentivo solo QRM in un certo posto e adesso ho visto che già funziona bene. Quando vieni di nuovo ti vedi cosa giù combinato. Gaba gaba. Ehi, io ti sento lo stesso con le orecchie. Ui. Ancora mi ascolti. Eia. Forte chiasso. Questa è quella radio di 13. E poi c'è pure di 14, io da qualche luma a testa. È uguale a quella tua questa. Perché quelle funzionano bene, quelle sono di marca. Che ti andare? Cosa ti credi che quella è una radio randaggia? Quella è di marca, Il padre e la madre. Questa non la fanno più. Adesso ti butto tutte le altre e mi tengo quella della macchina. E boh, mi ce le butto nel cassonetto, gli ho detto a Gianni a venire a pigliarsele. Domani tu ce ne dà per un cassonetto. Come? E tu non le butti in radio nei cassoni. E lo dici tu, gli ho detto pure che il cassonetto è. E poi passa a prendersele lì. Non ci vuole venire, ha detto le vuole a domicilio. E allora puoi capire a casa Giulia, direttamente. Ha detto che le vuole nel cassonetto sotto a casa sua. E già va bene. E allora mi da voi ando e vi ribusto i soldi. Passa a casa prima. Ah, così è. Così impazzimmo. Attenzione, binario 10, doppio rumo ripreso, cambio. Dillo mico. Gianni doppio rumo, ascolti qua, cambio. Chi è che chiama? Chi chiama? Che basso basso? E l'uomo nero è qua. Chi è Natali? Fammi da poco. Aspetta un attimo già. Ti racconta tutto. Va bene. Voglio prendere da mano. Premi voce voi. Franco, arregami chi su nevi, che vuoi mimosi domani. Domani mattina te lo faccio, Natali, quello fine. Ehi, ci dico un paio di bruciardi, cazzo, a mezzichina, amici. Gatta le mimose vuole, chi c'è manca è? Le mimose. Ehi, dice che domani è la festa delle donne, bisogna portargli le mimose. Poi sapere a Lucia, tu già lo sai, sennò ti buona lavoro in corso, chissà. Ma tu vai, la festa delle donne non è più in giorno. Ma solo domani. Ah, Edda ha detto che domani. Io vi raggiungo che tutti i dì, ma Edda non vivo più lì. Vai, in campagna ce ne un bel di mimose. Allora faremo efemografia. falle pure per me, fra! Mi fermo un mastro, un maccione di mimosi. Avvedomi, anzi tu pure un Gianni di pomi di mimosi. Caba caba, oia. E così mi regalo. Ma soffia a goccio, le mie a me non mi piace, perché fanno un odore cattivo, boh. Gatta che mi tocca andare pure a furare in mimosi, va. Bobo! Ma domani mattina ti do quel nervo. Quel nervo piatto che stavi cercando tu. Ma sono nel cofano io. Tu che tu grosso ed io che tu fine. Ah no. Gianni, dove sei arrivato? Strada di Alghero! Ah, sei arrivato a bomba, no? Però verso Sassa lì sono dove c'è adesso la Fiat, per intenderci. Ecco quella tali, questa tenda per essere piccola, va bene, dai. Sì signore, si conferma, va benissimo, anche se è un'antenna di plastica va bene. Piccolina, fa un'antenna di radio, che di plastica mi rende bene. Te credo. E cosa ci facevi sulla strada di Alghero tu Gianni? Dove vedi? Sono andato da qua zoo a comprare la roba per i pappagalli. Ah, è giusto. Io ho la canarina che sta covando. Davvero? Eia! Fatevi dai! Lo mascio mi l'ha fatta, io no, cosa ventro io? A chi mi l'ha giù fatta la canarina? Ma tu l'avevi comprata la femmina, no? L'avevi ricomprata. E allora, per forza, c'era sempre solo questo canarino. Solo che era bastardo che me l'ha ammazzata una. Avevo 11 amarghi anni all'accoglio. Perché probabilmente non ci stava, capito? Per quello l'ha beccato in testa. L'ho trovata morta, poverina. Gatta, adesso gliel'ho ricomprata una. Un po' di mesi fa gliel'avevo presa. E pare che vadano d'accordo. Ma va di fare l'allevamento, mi sta lì. No, la madre devo regalare, quando mai, cosa me ne può? Come faccio l'allevamento? Ma fai una selezione. Chiedetene una coppia sempre. Oh, no. Qua non c'è posto. Hai visto questo video? Yeah. Lo segui, lo vinto, sono troppo anche una coppia. L'ho visto, devo dire. Molti dici. Non entrare più. Ma perfetto, mettila con la casuccola. Ma di portoghesi, di arlecchini portoghesi non ne hai più. No, no. Quelli lì costano, quelli lì sono belli. Quelli sono belli veramente. Bisogna andare da quell'allevatore, se li vuoi. Quelli sono di lusso, cantano ben bene anche. Lo so, ma non ne voglio, psicologico. Non ne voglio, basta, finito. E che ti fa anche capire? Te ne ricordi quando eravamo in Porrati che scendevamo anche a Portatore già a prenderli? Già lo so. Vantaggio? Io canto la lampada, tutto quanto. La pregazza pure la cazzo è gialettano. Fra, ma i tuoi nati erano poi? No, una mi è morta. La femmina, cioè non morta, fuggita. E non l'ho più trovata, mi è rimasto il maschio e buco. Dovevate mettere la femmina con la gabbia, vicino alla finestra, di modo che se sentiva il richiamo tornava. Non lo so, io non l'ho trovata, la verità. Da quando è fuggita, chissà che mi ha dato qui, non lo so. Mi pare che c'era Pomponio che stava chiamando. Ehi, avanti Pomponio! Ha detto quegli uccelli la cosa, la tavina, li ha agganciati dove c'è Paolo l'antenna, fate salire su con la corda, capito? A me lo prendono un po' d'aria, quando lo sento prendere l'aria mi scende di nuovo giù. Ha trovato una soluzione Antonello. Capagava e capagava. E allora così bisogna fare. Usci. Franco, sempre mi ascolti? Caffa. Mercato all'ingrosso, come ci sta arrivando? 9:10 Radio 5. E dove sei? Io sono adesso in via Frumenarcia. Cava. Già va bene questa antenna, hai visto? Sì, andavo sì. Antonio, mi scoppia a me con la tana di gomma. E la voglia che ti sento. Ti arrivi bene qui. Antonio, io come ti arrivo da Predanieta? Guarda il segnale, cambio. Fa un po' passaggio. 1, 2, 3, 4, 5. 9 più 20, sì, dai 5. Aspetta. Vai giù. Ma sei di fronte a me, la lieta deve sai che ci sono neanche un chilometro di distanza. Se ti metti qua in mansarda, vedi tutto di quella lieta col binocolo. Scappa, dai, sono arrivato al centro carni, dai, mi fermo un attimino qua a comprare la carne e poi riprendo, là. Ehi, buona. Quella spesa avanti, la tai. Ehi, buona spesa già, allora, dai. Avanti, fra. E infatti, e io sono dalla nascosta, ho due palazzi, uno da una parte e uno dall'altra. Chi è che c'è tutto subito. Arrivo pure da Antonello, cosa vuoi di più? Qui sono 9.5, fra. Già ti ascolto io. Sì, ora tirata lì, sono in mezzo ai due palazzi. E sto utilizzando quella tenna lambi. Sì, anda bene. Stai dicendo bene, vuol dire sta funzionando bene l'antenna, che era proprio la storia che non faceva bene mai. Vabbè dai, riprendo la casa, dai, ciao, vai a dopo, dai, riprendo la casa. Ciao, fra, ciao. Ciao, fra, dopo ci sentiamo. Buon curetti. E tu che apparecchio stai usando, Antonio? Il 140 sto usando. Ecco, ragazzi. Sempre quello uso. No, appena acceso adesso, figurati. E in cameretta a cosa per me dovevo che ho dormito un accidente perché sono di nuovo con la tosse. E preso e con la febbre, capito? Sono uscito a farmi un giro e sono uscito in golfo, di notte, vabbè, siamo toccate alle 7. Io capito, io sono a 15 giorni influenzato e ancora non mi è passato che ti appari di rugattato, di razzuzza, mamma mia. Io sono altrettanto, anche si vola, c'ho così, figurati. Cattavo, tosse e tachipirina, quindi adesso la prossima settimana mi pare che arrivano 25 gradi, siamo a posto. Speriamo. A me la devo portare ora di lì in macchina, mi metto di fronte al mare e respiro l'aria pulita. Vediamo se passa il cattavo. Sì, almeno ci passa questa storia qua, ragazzi. Speriamo che faccia tempo buono. Ma e anche il tempo, abbiamo preso un colpo d'aria, a Franco non riusciva manco a parlare fino all'altro giorno, che era tutto rauco, tutto mamma mia, gli mancava la voce. E anche a me sono così, non mi vedo, sono rauco. E io lo stesso. Sono rauco. Addirittura quando mi viene da tossire a volte sembra che stia affogando, che non riesco a respirare. Sono già 4-5 notti che dormo male, capito? Dormo un'ora a notte perché mi viene questo catarro qui e per forza da bronchi devo proprio a sputtare. Io sono andato al medico, mi ha dato lo sciroppo, l'antibiotico, mi ha dato un antinfiammatorio, quindi figurati. Vabbè. Io me ne passo in ascolto che sto facendo cosa qua, se no non ne lavi in un più. Ehi, d'accordo, ci sentiamo al limite dopo la... Ok, ciao. Ciao, Antonio, se coincide, ci sentiamo dopo, dai. Ehi, ok, ciao. E allora, che si dice qua? Vabbè, tutti i morti sì. Attenzione, canale 10. Attenzione, binario 10, mi ascoltate, cambio. Hola. CQ10, cambio. Attenzione, canale 10. Hola. Hola. Che avanti. Avanti. È già arrivato, sì. No, oh, c'è una fila a Predanieta, sono passato da Sant'Orso, la mamma ne sono pentito. C'è una fila allucinante dove c'è Brito, ma è lì. Allucinante, guarda. Lì c'è casino forte. Perché non sei passato l'altra strada allora? Perché me ne sono accorto adesso, quando ci sono andato in mezzo che c'era traffico. Dall'altra strada sarei passato se avessi saputo che c'era traffico, ma non lo sapevo. Un casino è lì. Adesso sono proprio dove c'è Briccome, dove c'è lo svincolo. Vincolo. Come sta arrivando, fra? È un passaggio. Per rendermi conto, no? Sempre. 9:10, sì. Ah, vabbè. Alla grande. Vabbè, io sono a casa adesso, non sono in DM. Già, ma ne sono accorto che sei col K. Ma si sente? Vabbè. La pagaglia va bene. E bisogna accenderlo ogni tanto, altrimenti mi si rovina. Appunto, te l'ho detto, dalla a me, così non si rovina l'usui. Ah, vero. Ma c'era Natali, non so se c'è ancora. Natali ci sì. Ah, va, per Udre, la Sant'Orsola, no, non vi grido qua. Non esce mio papà dai vivi. Cosa fa? Ero... sto facendo cosa, dimmi. Stavo chiamando a vedere se c'è tutto qua. Ok, dai, stai facendo cosa, allora fai, fai, tranquillo. No, no, dai, dimmi. Che stavo guardando roba al computer. Sì, capo, stavo guardando anche io. Stavo guardando quelle cose là, ma non le ho trovate. Oh, andiamo, andiamo. Basta, gaba, gaba. Meno male la raucidine. Piano piano se ne sta andando, dai. Sì, Quattro settimane, quasi due settimane, dai. Ha portato antibiotici, oiui. E invece c'è una forza di pomate dove c'è il dolore, non vivo qua a sacca. Se non c'è qualche cosa da fratturare. Invece io antibiotici. Oggi ho finito la cura, l'ultima oggi l'avevo fatta. Poi ho finito. Caragava. E cosa hai preso, veramente? Flumicil, Mautinado e Proben. Come dice? Flumicil, in buste. Ah, cappa. E della pista politica che mi dite? A me non mi è passata ancora. Non è una pista politica. Ho preso due cicli di quel Bisolvon, però non mi ha fatto nulla. Zenzero e miele, Natali, per il catarro ci vuole. Cosa ci vuole? Zenzero e miele. Ehi, a Usongu. Però ancora non mi è passato nulla. Vabbè, io già sto migliorando, dai. Prima non riuscivo neanche a parlare, figurati tu. Cava cava. Già lo so. Ma sai quanta gente c'è, un po' di gente così, Questo virus attacca proprio alle corde vocali. Vai Gianni. Da parte mia, Sant'Orso la Nord, all'entrata. Già ti ascolto, già ti ascolto. Non c'è problema. Sì, Natali, in definitiva era, sai che cosa? Praticamente la basetta non stava facendo massa. Tira giù di qui. E quando è anche la mia. La base magnetica che avevo io, se non la lucidavo, mi dava problemi. Allora ho preso quella presetta con quel trapanino che ho io e me l'ho lucidata. Allora è una bomba che si antenna. Si conferma, sì, sì, definitivo è così. Comunque quell'apparecchietto va bene, Natali, non è un granché, però diciamo per la macchina già va bene, dai. guarda che c'è bene veramente quella, quell'apparecchietto lì, eh. E il mio lo stesso, il mio funziona benissimo. Quando mi rubo anche in macchina ti rubo senza indizio. Ma Giorgio ha 34. Ehi. No, questo ne ha 40. Intanto siamo sempre sul 10, cosa cacchio me ne frega. Già va bene. E la Puglia che va bene, Natalia, alla grande. E allora? Massimo, ne usiamo due di canali e buco. Buongiorno, adesso gli ho fatto una modifica a quello. E a quale? A quella radio, l'ho aperto la LC e in più gli ho messo un trimel.